cazzo da quale cimitero? Sassari oppure qualche paese? Avanti l'amico del cimitero nuovo. A Pordotovic, Cimitero nuovo si trova lì alla cantoniera degli Pitriazzi, all'ingresso di Pordotovic. Buonasera a tutti. Ah, ciao qua. Vabbè, ma se lui non lo dice, noi non siamo indovini. E tantomeno non siamo nemmeno fattucchini. Per cui se lui non lo dice, si ha vergogna, peggio per lui. Poi ripeteva sempre, mi sentite, se sta parlando con Roberto, continua a dire mi sentite. Boh, io non lo so come si fa. Vabbè, dai, avanti Roberto. Ciao Giulio, ciao Claudio, ben sentito a tutti e due. Ha detto, non è il cimitero di Sassa, ha detto, questa è roba, non ammazza. Anche io stavo pensando a Porto Torres, arrivava 8 qua. E dice, era in macchina, stava sistemando l'antenna. Vediamo se è rientrata. Avanti, sceriffo, io credo di averci già parlato con lui. Avanti di nuovo. È un vecchio civile di Porto Torres, si chiama Antonio di nome. Antonio sceriffo, se mi sta ascoltando, buonasera anche a lui. Ieri era l'ingresso di Porto Torres. Va bene, dai, vi sto ascoltando da poco fa io, Dunque, buonasera a tutti e buon fine domenica. Ok, proseguite pure e io continuo a rimanere in quelli. Ciao Giulio, Gianfranco, Mattarino e Roberto. Ciao. Ciao Claudio, vai Natale. Riprendo io. Ciao Claudio, Giulio, Roberto. Io vi saluto che devo cenare per forza. Vi ascolto comunque, là, rimango in quel X. Ciao Natali, buonasera e buon tutto. Vai Gianfranco e poi Giulio. Sì, ciao Natali, grazie per la chiacchierata. Alle prossime, ciao anche Claudio, ben ascoltato. Riprendi Giulio. Ok, ciao Natali, alle prossime, ciao Claudio, rimani in quel X. Io sono rientrato adesso, rimango un pochettino. Oggi sono andato, ho fatto girare il campo, ero da un po' che non lo facevo uscire, perché ho fatto anche dei lavori, eccetera, eccetera, sono salito su nell'imbara a Valliciola. Ma è successo, non prendeva Vodafone, nessun cellulare, tutto spento. Sotto i ripetitori, diciamo, in linea aerea sono stata a 2 km, 3 km, c'era una zona morta, non so per quale motivo, poi ti spostavi un peluzzino e riuscivi a agganciare. La prima volta che mi capita in Sardegna di non prendere con Vodafone. Ma anche strada facendo, a un certo punto, ma la strada per tempo non prende segnale, sempre parlando di Vodafone. E questo è successo anche da poco a me, per cui non ti meravigliare, vabbè, succede. Va bene, dai, avanti, Gianfra. Sì, lo stavo dicendo anche a mio collega, che abita a Sassari addirittura, nella zona di Filigheddu. A volte neanche a balla prende, perché evidentemente si stanno lasciando andare, in parole povere, evidentemente gli affari vanno male con tutte le persone che hanno truffato, molte se ne stanno andando da Vodafone, e peggio per loro. Oramai, sai, le nuove infrastrutture, eccetera, bisogna fare investimenti se vuoi rimanere sul campo. Per l'LTE, ad esempio, che ha investito veramente tantissimo, la Iliad, gli altri sono in affanno, perché i clienti la stanno diminuendo. E così, concorrenza, c'è poco da fare. Riprendi Roberto. No, ma la cosa è ridicola, io quando sono salito l'altra volta, 2 anni fa ci sono salito, c'era 4G, c'avevo copertura ottimale anche per coso, per internet, perfetta. Secondo me hanno staccato qualche ponte, hanno chiuso, perché hanno notato anche in altre zone dove prima era più forte il segnale, c'è ancora debole. Secondo me stanno riducendo, chiudendo gli impianti, in previsione di questo 5G secondo me. Il 5G, se non ci sono i telefoni, meglio i telefoni ci sono, ma costano troppo, non sono tutti che se lo possono permettere. Mentre, diciamo, Iliad sta mantenendo tutto, non solo, ma anche in piena pandemia, ho saputo che hanno messo parecchi al diverse fonti, sia 5G sia 4G per la copertura in Sardegna. Vodafone sta calando, ma molta gente lo sta dicendo, ma ripeto, anche la politica pessima che ha fatto per alcuni anni di truffare gli utenti, capito? Molta gente si è trovata con queste spese, con questi abbonamenti che non aveva mai fatto, e la risposta era sempre la stessa: e vuol dire che voi avete navigato dove non dovevate, ma come, col telefonino mi metto a navigare dove non... E la stessa cosa capiterà a Wind, perché lo ha fatto anche a me, tra l'altro, e quindi ero cliente da anni, e adesso si attaccherà al tram, così impara, e purtroppo bisogna fare così. Quando vedi che si comportano male, mollarli, tanto già c'è una compagnia oramai. Vai giù. Ok, ma non è solo voi, dopo no. un po' tutte le cose, i telefoni hanno la loro pecca. Perché cosa pensi, che TIM sia migliore, oppure che altri siano migliori di voi, ma nemmeno per idea. Figurati, io ultimamente, prima di avere questo Vodafone che ho adesso, ho due schede io Vodafone. Avevo quello delle poste, ti puoi immaginare, quello pagavo trimestrale, 10 euro al mese mi veniva, ogni 3 mesi pagavo 30 euro, compreso di tutto, anche come si chiama, internet e tutto qua. Però tante volte non prendeva nemmeno questo, per cui il problema di Vodafone è questo, che ogni tanto tu sei la scheda normale, non quella da internet, ma una scheda normale, ogni tanto ti mancano i soldi. Non capisco per quale motivo devono prendersi i soldi senza che tu utilizzi la scheda. Questo che è. Infatti io un paio di volte ho protestato, adesso sembra in quest'ultimo periodo sembra che non stiamo più toccando, e sto tenendo sempre d'occhio la cifra che c'è, per cui voglio vedere se continuano a rubare i soldi, perché per me quello è rubarli i soldi. Avanti, Giappone. Sì, infatti è quello che ti stavo dicendo. Ma hanno, come si dice, andato oltre il lecito, che poi rubare non è mai lecito, però veramente ne hanno combinato di cose di crude. Guarda che c'è gente che in Belvita, io ti posso dire, è proprio con l'Omnitel, mio fratello aveva caricato 50 euro, 50 euro sono sparite, ma come? Dice, non telefona nessuno e ti spariscono 50 euro, così, ma stai scherzando? Infatti il giorno dopo via, fuori, ti ho detto tutto, ne hanno da mandare messaggini, ma come mai, ma perché te ne sei andato? Se rubano, sono ladri, è punto, c'è poco da dire. Facciamo un attimino di bianco, vediamo se quello sceriffo di Porto Torres è rientrato. Avanti sceriffo. Ti sei abbassato, adesso 6-7, più basso di prima, sì. Forse è peggiorato, non so cosa hai combinato. Ti sento ma malissimo. Ok, dai, non c'è problema. Se riesci a sistemarti meglio, adesso sei arrivato 8 in questo passaggio, magari mettiti in una posizione migliore. Vai Giulio, di nuovo a te. Ok. Sì, ma ripeto, tutte le gestioni del telefono hanno i loro difetti, perché è successo anche in altre compagnie, non è che solamente Vodafone. Io non capisco per quale motivo adottano questo sistema. Poi quando ho telefonato per lamentarmi, ma come mai, se io non utilizzo mai quella scheda? Mi spariscono i soldi così dalla... No, perché a me è l'applicazione... Chi non ha detto a voi di mettere questa applicazione? Questa è una vostra iniziativa che l'avete fatto. Io non ho chiesto nessunissima applicazione. Ah, vabbè, ci scusi, e la tolgo. L'ho fatto un po' di tempo e di nuovo da capo. Ma allora mi state rompendo le scatole veramente. Allora cosa devo fare? Devo cambiare. Solo così bisogna fare. Però non è che puoi stare sempre cambiando gestione da uno all'altro, perché è anche fastidioso oltretutto, no? Ma purtroppo sei costretto tante volte. Avanti, ciao qua. Sì. Ma Giulio, non ti meravigliare, lo fanno a tutti. Tu pensa 50 euro te le frega a te, 50 euro li frega Roberto, 50 euro lo frego a qualche altro milione di italiani. Fate il conto dell'intuito che c'è questa gente senza fare niente praticamente. Infatti io sono già da alcuni anni con Iliad, e Iliad queste cose, siccome sono molto molto furbi, li hanno messi per contratto, cioè finché dura il contratto da Iliad a quel prezzo è ogni mese. Infatti io non ho mai trovato niente, proprio la tengo d'occhio la marco stretta, ed ho visto che non solo ha mantenuto le promesse, ma addirittura la copertura è enormemente aumentata su internet. A volte viaggio con velocità interessanti, l'ho testato da Sassari a Cagliari, e il collegamento internet è rarissimo che manchi, quindi è eccellente. Sarà francese, ma non me ne frega niente, ma almeno quello che dice fa, ecco, mantiene le promesse contrattuali, cosa che gli altri è veramente una sofferenza, guarda, i signori della truffa. Aggiungo qualcosa io adesso riguardo il volo. Prego. Allora, io sono, diciamo, da 95 ero con Omnitel, perché team ero, io sono di quelli che a me mi piace provare le altre cose. Prima c'era solo la Telecom che faceva come cellulari e basta, poi è diventata team, ho detto no, c'era una scheda che mi aveva dato con un cellulare e Telecom, però l'ho tenuto a poco e non l'ho più riattivata, e sono passato da 95 come Omnitel. Dopodiché Omnitel è diventata, è stata assorbita dalla Voda, all'inizio andava tutto bene, dopodiché è arrivato a un certo punto che hanno fatto i furbacchioni. La prima cosa, se avete notato, se tu ti fai una ricarica da 10 euro dalla Vodafone ti fa 9 euro di ricarica, se la fai da 10, da 20 te ne fa da 19, devi fare sempre 1 euro in più, se vuoi 10 euro devi fare 11, se ne vuoi 20 devi fare da 21. Poi un'altra cosa di Vodafone, vabbè, io adesso ho una scheda particolare per stranieri e diciamo grazie a Dio mi salvo, ma sino a poco tempo fa, qualche anno fa, con l'altro numero, di lì era una mangiatoia continua. L'unica cosa è che io non posso mandare sms, nel senso, se li mando li pago quasi un euro l'uno, infatti la prima volta che l'ho attivata mi ho mangiato 29 euro di messaggi, infatti ho detto cacchio 30 euro di colpo, senza molti questo, se io non ho telefonato, dice ma lei ha mandato messaggi, perché ha avvisato tutti i miei, le persone che in rubrica li ho avvisati con un messaggio e mi hanno mangiato 29 euro in un secondo, in un attimo. E poi un'altra cosa che volevo dire di Vodafone, che adesso mi aspetta, ho perso il filo, vabbè, a parte quel discorso lì del coso, se fate una chiamata al 414, almeno se faccio io il 414 per sapere il credito, ti tolgono un euro, questa è la cosa più vergognosa. Avanti a chi io sento uno parlare sotto. Sotto lontanissimo, sì, però non si capisce cosa dice. E la fregatura è questo, cioè cercano di mangiare, prima hanno mangiato dal fatto dei 30 giorni che ti facevano la ricarica dopo 28 giorni, non più 30, alla fine c'è stato l'antitrust, li ha condannati, li ha messo anche una multa, dice sì facciamo 30, è come prima, però la ricarica non te la do più da 20, te la do da 19, al contrario di tutti gli altri gestori, Iliad, Cosa, eccetera, eccetera, Kena, e Team, e tutti ti fanno la ricarica piena, Vodafone è l'unico che ti toglie un euro dalla ricarica. Ma sì, poi è una cosa che hanno copiato anche la Wind, non è scherza, è a fregature. E siccome sono accorti che hanno avuto proprio un'emorragia di clienti, perché sono tutti passati a Iliad, all'inizio li ha fatti droghi, perché erano su livelli di, credo che fosse quanto era, 4 euro, 5 euro, una cosa del genere. Era, io ho colleghi sentivo, ma scusa, cosa c'è? Io ho team, e quanto paghi? 15 euro al mese. 15 euro al mese. Cioè, è il doppio, e poi pagavano qualcosa. Se tu ben ti ricordi, prima molta gente veniva vincolata, una cosa assurda, cioè praticamente se tu te ne andavi ti mettevano la penale, ti svuotavano il credito residuo, e per andartene dovevi pagare non so quanto, cioè veramente cose allucinanti. aspetta, scusa, ti dico un'altra cosa. Allora, io avevo un'amica carissima mia, aveva l'abbonamento a Iliad, gli ho detto guarda che c'è un'altra opportunità di Kena, tutti i clienti, Kena sarebbe team, tutti i clienti di Iliad ti faceva uno sconto ulteriore, con 4,99 ti dava le stesse cose e più, ti dava allora 70 giga contro i 50 di Iliad, e la copertura è quella di team, per cui aveva anche una copertura superiore. La cosa bella di Kena è che ti ha recuperato il credito di Iliad, perché ti rimanevano 5 euro e te li rimetteva nella propria scheda, dopodiché se per dire in un mese tu hai consumato 2 euro, ti rimanevano 2 euro, non hai telefonato, te li riaccreditava al mese successivo, e quella è una cosa molto interessante. Io ho, come ho detto, due schede, una è normalissima, cioè una scheda consumo più telefonate più consumo, e dunque a un certo punto si scarica, no? Mentre l'altra invece che ho internet e ho 1000 messaggi, 1000 telefonate, insomma ho tutto, e internet 24 ore su 24, quando pago 7,90 euro al mese, 5-6 giorni prima ti avvisano già che voglio già i soldi, ma io glieli do sempre all'ultimo giorno, per cui non mi butto niente, primo. Però c'è un altro problema, la TIM ad esempio, la TIM, io ho il telefono in casa con la TIM, perché tra l'altro c'è anche la fibra, no? Che tra l'altro la fibra non è mai totale, è sempre dimezzata. E ho il telefono di base che è mio, di mia proprietà, comprato proprio dalla TIM, pagato 80 euro o 90 euro, adesso non ricordo bene. A questo punto sono anni che mi mandano sempre la tassa sul telefono, cioè praticamente come se io ce l'avessi in affitto il telefono, mentre invece il telefono è il mio, non è di loro. Per l'ennesima volta abbiamo protestato proprio la settimana scorsa, adesso è arrivata l'ultima bolletta, prima da 3,90 euro, una cosa del genere, di questa tassa, adesso me l'hanno ridotta di 1 euro praticamente, 1 euro qualcosa, l'hanno ridotta. Ma non hanno ancora capito che il telefono è il mio, adesso il telefono di nuovo da capo e mi stanno rompendo le scatole veramente, glielo dico chiaramente, glielo dico a questi deficienti, i ladri, perché per me sono ladri, perché io ho il telefono che è di mia proprietà, comprato da loro, con tanto di contratto. Boh, cosa vuoi dire? Comunque così, vai. E questa è una storia che dura già da almeno 4-5 anni e loro si prendono sempre i soldi come se io avessi il telefono in affitto. Vai già là. Sì, sì, è un classico, guarda, non è niente di... tu figurati che qua c'avevo il collegamento telefonico via cavo, no? Proprio dalla Telecom. Beh, sono venuti, hanno collegato tutto al telefono, mi raccomando, il numero deve essere privato, eccetera. Beh, è squillato il telefono, io pensavo fosse la Telecom, stavano facendo controllo, il telefono è stato appena messo. Va a rispondere, buongiorno, volevamo sapere se era interessata una voce rumena, ma cose di questo genere assurde. Ma scusi, ma chi gli ha dato questo numero? No, ma noi abbiamo tutti i numeri, eccetera. Ah, avete tutti i numeri, bene, bene, bene. E il telefono l'ho subito staccato. Poi ho la DSL, le peripezie. A parte che andava Automega, un giorno c'era, l'indomani si era rotta la scheda della centrale, poi praticamente non ne ho scritto niente, io ho un link da parecchi, ma parecchi anni, via radio, non si è mai interrotta, non solo, mi hanno chiamato, sono venuti, hanno sostituito tutto l'apparecchio perché mi hanno detto, guarda, stiamo cambiando tutto gratuitamente perché le nostre reti stanno passando in 5G, quindi può avere anche velocità di picco di 30 mega, cosa verissima, a volte fa anche 35. Capisci, sono ditte molto oneste, molto serie, ma veramente quelle grosse hanno fatto soldi rubati, veramente, soldi rubati. In più a tutte le illegalità che hanno combinato, sempre sanzionate la garante, sì, chissà se le hanno pagate pure le multe, è una cosa vergognosa. Riguardo poi alle varie sotterfugi che hanno fatto, no? Tipo Kena, poi c'era OK, cos'è l'altra, OK di Vodafone, eccetera. Stavo leggendo delle recensioni che dicono di stare molto attenti, perché comunque, sono operatori virtuali, e quindi anche il giorno dopo potrebbero chiudere baracche e burattini. Molto spesso molti sono accorti che queste qua ti riducono la banda praticamente, quindi quando utilizzi il telefonino per connessioni internet ti accorgi subito che c'è qualcosa che non va, proprio perché la Omnitel o la TIM, essendo sottoprodotti dalla loro azienda per contrastare Iliad, se ti tolgono subito la banda, capito? I furbacchioni. E questo l'hanno misurato proprio delle agenzie che fanno questo lavoro. E tutto lì, tenendo presente che Iliad comunque non è virtuale, come molti pensano, è un operatore vero e proprio, credo che sia tra i più grossi d'Europa, tra l'altro c'è anche in Africa. Comunque, sempre la stessa cosa. Truffe. Guarda, io l'unica cosa, a parte io sono assolutamente insoddisfatto dalla Vodafone, a parte la copertura, che però ho notato che sta diminuendo, come ho detto prima, il vantaggio ce l'hai solo quando vai all'estero, perché se vai all'estero non spendi come con altri gestori. Io parlo fuori dalla comunità europea, perché se vai nei paesi della comunità europea, anche se c'hai TIM, è la stessa cosa come che sei in Italia, però se vai in un paese europeo non puoi fare niente, adesso ti costa un sacco di soldi la telefonata in roaming utilizzando il gestore TIM o qualunque gestore che avete. Vodafone in Europa è leader, non ce n'è per nessuno. L'unica cosa di bello che mi ha fatto Vodafone, non so per quale motivo, mi ha regalato un anno di internet illimitato. Infatti ha detto, gentile cliente, gli facciamo un omaggio, mi hanno regalato per un anno, più di un anno anzi, effettivamente un anno e mezzo, internet senza limiti nel cellulare. Potevo collegarmi 24 ore su 24, infatti sono rimasto a bocca aperta, e mi è durato più di un anno e mezzo è durato, non ho capito per quale, però c'è da dire che la mia è una scheda per stranieri, internazionale, non è intestata direttamente a me, diciamo diversa dagli altri, non so per quale motivo. Per il resto assolutamente insoddisfatto, perché è una truffa le ricariche, poi non parliamo di tutto il resto. Se mandi un sms col contratto mio mi fanno nuovo, un sms costa quasi un euro, se vai a chiedere quanto c'è di credito ti costa un euro, è tutto un furto. Di nuovo a te, giù. Ok. Sì, ma io ho premesso che ho il telefono cellulare, ce l'ho già un po' di girarmi, più o meno, un po' come tutti gli altri, non solo niente io. E prima facevo sempre ricariche a 50 euro per colpo, così. Però no, mi hanno fregato diverse volte, mi hanno mangiato i soldi, allora da un bel po' di tempo a questo, diciamo da 3 anni almeno a questa parte. Che è? A tu? Cariche solo al limite veramente 10 euro massimo, non di più, quindi almeno se me li prendo i soldi non possono guadagnarsi più di tanto. Ma prima mettevo 50 euro, vedita, dopo 15 giorni mi ritrovavo magari con 15 euro, ma è una cosa quasi spaventosa, proprio un modo di rubare proprio esagerato veramente. Io posso capire prenderti qualche centesimo, ma accidenti, non è la fine del mondo, anche se non è giusto, non è onesto, però capita, e tu mi svuoti la scheda così, e allora a quel punto lì io ho cambiato il sistema. Adesso ho la scheda, quella per internet, che pago 7,90, nonostante che loro mi mandano continuamente, quasi giornalmente, mi mandano un messaggio che mi regalano un mese il premio, eccetera, eccetera. Poi dopo un mese però diventa 15 euro al mese. Ma dimmi tu se io sono così scemo che ho tutte le telefonate che voglio fare, tutti i messaggi che voglio fare, compreso WhatsApp, compreso internet, tutto quanto quello che... e pago 7,90 euro al mese. Dimmi tu se io sono scemo, che faccio? Do un retta a loro e passo in quella promozione che loro mi vogliono fare, per passare poi a 15 euro al mese. Ma questi sono veramente scemi proprio dalla nascita. Avanti Gianfranco. A c'è cosa c'è Antonio? Antonio tu sì. Capo, ero io, che stavo... Ho aperto che stavo ascoltando, c'era il mezzo acceso qua, col tendere. La musica. Sì, infatti ho sentito la musica in sottofondo. Ciao Antonio, vai già fra. Sì, io ne approfitto, non mi accorto che eravamo già arrivati alle 8. Ciao a tutti, vi saluto, buona serata, alle prossime, ciao Antonio, ben entrato. E ci sentiamo, io devo scappare via perché alle 8 devo fare anche una cosa. Riprendete alle prossime, riprendi Giulio. Sì, riprendo io per chiudere, dai, che è appena arrivato mia figlia, mio genero, e dunque ceniamo adesso, per cui devo scendere giù. Ci sentiamo, grazie per la chiacchierata, ciao Roberto, ciao Gianfranco, ciao Antonio, ti saluto, sto chiudendo, dai, avanti pure Antonio. Kappa kappa. Salutoni, ce la risentiamo, salutoni Giulio, salutoni anche a te Gianfranco, ci sentiamo alle prossime, avanti Roberto. Ciao Giulio, ciao Gianfranco, a entrambi, buon proseguo di serata, buona cena, buon tutto, dai. Ci risentiamo alle prossime quando capita, io rimango ancora un pochettino, dai. Faccio un po' di compagnia ad Antonio, avanti Antonio. Kappa, dai, saluto a tutti e due. Vediamo se c'è qualcuno sotto che vuole entrare, nel frattempo c'era quello di Porto Torres che stava provando. Avanti sceriffo, se ci sei ancora, se no riprendi tu Antonio. Andiamo, andiamo, che è? Che è? Mia Lucariello, ogni tanto entra e poi se ne fugge, vai Antonio. Va bene Lu, chi se vi piace da voi? Ciao Antonio, ciao Roberto, Roberto, tempo ne ho poco, perché sto qua, sto là, capito, adesso vado a casa, se ci siete dopo io arriverò verso le 8:30 a casa. Ok, Luca doveva sassonare quella canzone, no, Luca, la che ha mandato Antonio? Sì, alla fine gli accordi sono sempre uguali. Come mi piace le canzoni da Sarisa, a me? Qualche volta gli ascolto. Non ti piacciono, Roberto, a te? A me mi piacciono un bel, ma no, questi ragazzotti di adesso che cantano mi fanno ridere, che sono vergognosi. Adesso se ne svegliano una mattina e fa subito il CD, ma la so, cioè, la canzone da Sarisa è bella quella di quelli che sanno cantare e comporre musica, noi ti svegliamo la mattina, batterie, effetti speciali, canzone da Sarisa ci vuole chitarra e cosa, fa sentire gli strumenti, non attendi la batteria e cose del genere. Cosa stavo dicendo di Luca riguardo di canzoni sassarese, Luca già è bravo, l'ho sentito più di una volta suonare, è molto bravo. Aveva preso questi gruppi di Sassariveccio, Rumonte, Ghido, Ghidazzo, che fanno ridere, cioè si sovravolterebbero la tomba, diretto Ruzzetta, Giovannino Giorgio, tutta questa gente qua. Vabbè, pure loro devono cantare. Mio amico di Sossu che è bravo, me è bravo un bel me, cazzo, è molto molto bravo me. Sì, ce ne è bravi, però quando compone la musica le parole adesso sono troppo banali, adesso Rudossico, Ghiddo, Ghiddato, cioè cose che ormai sono passate, nel senso quando la faceva diretto Ruzzetta, Giovanni Norgiordo, Giuseppe Manca, Giuseppe Fiori, canti me ne te ne faccio 10.000 la compagnia, tiro la terra, ecco, ascoltate era un piacere. Adesso quando senti sono tutti rumori di cose, bu bu batterie, il coso, si mettono a strimpellare loro con una chitarra, poi alla fine ti magari cantelli, cioè sembrano cantando in strada quando ti metti a riproporre una canzone tra amici. Vabbè, qualcuno ci deve essere a rifare la musica. Ecco, mio suocero è amico di Giovanni Giordo, infatti è morto Giovannino, infatti Edo sempre quando esci è sempre con le canzoni. Thank you. Quello di Tarzan, il proprio di Getti Detturi. Vabbè, lì già diciamo pure. Vabbè, sai cosa, Robe? Io la sono ogni tanto, faccio un paio di acqua e poi mi fanno Beppe. Peppe Detturi, ho detto Getti, Getti mi stavo confondendo con Cucciari. E ha fatto la canzone con le Maneschini, Mudo e Cagliardo si chiama. Zitti e Muti è la canzone, si intitola, invece lui l'ha chiamata Mudo e Cagliardo, in Sassarese l'ha fatta, non so se l'avete sentita su internet. Non la conosco. Altro giorno l'ho visto oggi il video, l'ho sentito oggi, tu altro non l'hai visto? Io me ne ricordo una che aveva fatto tra Vamischia, ma lui è un artista, lasciamo perdere. Aveva mischiato l'inglese col sassarese. No, ma questo dei Maneskin che hanno vinto a Sanremo, che hanno vinto anche l'Eurovision, che adesso sta spopolando, a me non è che mi piace, non è il genere mio, però stanno spopolando anche nella classifica inglese, sono capitati tra i primi 20 e non so da quanti anni, 50 anni, che nessun italiano è riuscito ad arrivare a quell'altezza, forse Buccelli è arrivato 22esimo, loro più di Buccelli sono andati, e ha fatto questa canzone con dei Maneskin, Zitti e Muti, insomma si chiama, era chiamata Mudo e Cagliardo in sassarese. Guardatevela, la fa un po' ridere. Vediamo se qualcuno nel frattempo vuole entrare, attenzione nel canale 10, chi vuole entrare se no riprendi tu Antu. E oggi c'ho il QRM più basso del solito, a 5, c'è a vedere se è dura, avanti Antu. E c'è a vedere, se lo troviamo. È un po' di capo. Eccola lì. Ma lui è una pizza, la verità. Vabbè, lui è un professionista, nel senso ha una cultura musicale, di un amico mio, adesso c'è la moda di fare questo rap tipo Kidu, come si chiama, come tutto lo scoppiato, non mi viene il nome, vabbè, che c'ha il nome di una nave di Affana a Napoli, aiutami, Achille Lauro, no, Achille Lauro, quelli lì adesso ti muoniti i quattro pensieri, ti metti a dire due o tre parolacce e subito i ragazzi si sciolgono, tipo questo Achille Lauro, ti scopo qua, ti faccio là, tutte queste parole così, e i ragazzi si sentono soddisfatti. E c'è il figlio di questo amico mio, ci ha fatto anche il video, lo vedi, tutto quanto. Ormai non esiste più la musica, l'interprete, è tutto col computer, ti muoio una base musicale, un po' boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom, e poi tre parolacce sopra e quella per loro è musica. Quelli sono cipitù, sono, no? Non sono per nulla bravi a vendere musica. E così sta diventando la musica in sassarese, cioè si rivolterebbero alla tomba i vecchi Ginetto Ruffetta, tutta quei cantanti famosi che c'erano prima, ma a me l'avevano voce, Giovanino Giorno, quando li senti cantare adesso ogni sonatura ragliende, ma è grano di causo ragliende, proprio non mi piacciono. E chi tu? Canta così, a me non mi piace assai. E uno di Romonte, pare che. Ma che da volte è tipo Bafferino. Lasciamo perdere. Oh, anche loro devono divertirsi, farli divertire così, diciamo già un divertimento sano, meglio di fare altre cose. Però io dico, se devi comporre musica devi avere una cultura musicale, devi conoscere le note, devi aver fatto scuola. Se devi cantare devi avere anche qualche nozione di cosa, di voce, fare un corso di voce, dove ci siano maestri che ti correggono le cose, le tonalità e tutto, non è che ti svegli la mattina e diventi cantante. Questo è che non mi piace. Spergiuni, cioè se una persona di fuori, non dico di Sassari, si mette ad ascoltare poi queste canzoni, dimmi chi fa la canzone sassarese, dico ma bella cagata, e magari cancelli le vecchie canzoni sassarese dei tempi di coso passati, quelli che ho nominato io, tutta quella gente lì che hanno fatto bellissime poesie, non canzoni, poesie, quando sentivi cantare Drome Drome, della Merenzana, tutte quelle canzoni lì, le mie ferie, ce ne sono tante anche allegre, non solo tristi, tipo quelle che ha fatto Giovanino Giotto, ce ne sono anche allegre, la Gentiera, Sassari, cosa vuoi ti dica? Ragnereddo, coso, Pignende Cantendi, sono canzoni che hanno un significato. Robè, già lo so già. Cappa. Ma allora a te che sto parlando in radio. Cappa. Vediamo se è entrato qualcuno, che tra qualche minuto vado via, adesso sono le 10, ti vuole entrare. Ora. c'è qualcuno che parla sotto, però non lo capisco io. Guarda, ho fatto adesso un po' di gente è fissato anche a Roma, non la chiedo, non la chiedo, non la chiedo. Cos'è, musica latinoamericana? Non ho capito. La bacciata è ho capito, sì. Vabbè, a me il ballo non mi piace, quelli che fanno quei balli tutti insieme di gruppo non mi so. Io in discoteca andavo sempre, sempre, per tanti anni, da ragazzino sino a quando mi sono sposato. Poi ci sono andato qualche volta così, tra amici, è capitato, ma di raro. Però a mettermi a ballare quei balli di gruppo, mamma mia, lascia busy, no, non è per me. No, questo non è balli di gruppo. Che ce lo devi pigliare? La tua nonna farà frisciare così. Ma lo sai quanto li piace alla gente? Sì, io lo so, c'hanno anche gli estimatori di quel genere di cosa, però io, vabbè, non so ballare, io ballo la discoteca seguendo il ritmo così, il movimento che faccio io, non è che mi metto a fare i passi di quelli, come per dire, che gente che se li studia, quando c'era la lambada, tutti quel basso, poi c'era quello ricoso di carellato che ci doveva poco, questo inverno, quella musica africana, come si chiamava, adesso non me lo ricordo. A me mi piace Ghiccio. Cos'è, reggaeton questo? Sì, reggaeton. Mi piace. Diciamo, questa è tipo l'orecchia più bellina, ma ci sono quei balli, mamma mia, molte volte che mi dicono che cioè, fare roba di geriatria, di fidari, quando li vedi tutti ballando tutti in fila, tutti come macchinette, e poi ognuno poi a conto suo, perché a parte quelli che proprio lo sanno bene, molti vanno a conto loro. Però c'è un po' di gente, io ho amici diventati scemi, ma gente grande, molto molto più grande di me, fanno le gare, cacchio, tutte le settimane andavano a ballare, vedevano, venivano, no, no, c'ho il coso, l'esame per il ballo, giù da Danilo, non so se ci sono mai andato, pieno di gente, adesso vabbè con questo fatto del Covid, ma sino a due stati fa, tu di sabato, di venerdì e sabato non ci potevi entrare, era pieno di gente. Avanti il break. Ok, buonasera Antonio, buonasera all'altro amico che non mi ricordo il nome antico, Gian Maria, sono un controllo di radio per cortesia. Che si è approvato un microfono. Ciao Giammari, ben sentito, Roberto da questa parte. La radio è ottima, pulita, chiara, il segnale 9 quasi più 10, ti ascolto perfettamente, vai Anto. Giammari, il segnale 9.15 e radio 5. Grazie Anto, grazie a Roberto, è un piacere di sentirti, vai. Buon proseguimento, stavo provando un microfono, volevo sapere se stavo uscendo. Grazie, riprendi, Roberto. Sì, non c'è problema, quando vuoi. Che radio è, che microfono, se lo vuoi dire, Giammari? Come? Se lo vuoi dire, che radio e che microfono stai utilizzando? È il Presidente Lico, versione 3. E il microfono? È il microfono originale. Ti ascolto perfettamente, pulita, senza disturbi, bellissima radio. Ok, vai a tu. Capo, no, va bene, radio e segnale vanno bene, dai. Ok, vi ringrazio, dai. Riprendete, scusate se vi ho interrotto. Ciao Roberto, ciao Antu. Riprende Roberto. E non ti preoccupare, è sempre ben accetto, Giomari. Tanto tempo che non ci sentivamo, ma è sempre un piacere. Vai Antu. Ciao Giomari, ci sentiamo alle prossimine. Ciao ciao. Antu, non ascolti mio angelo. Cosa mi hai bigliato? Cata, arrivederci. Io sono le frasi, io non dico che sia asino, no? Può anche non piacere, però bisogna ammettere che un cantante è uno che diciamo sa cantare, poi può anche non piacere, ma tu la gente, cacchio, ce l'hanno a morte contro Nino D'Angelo, cioè proprio, ma che cosa ti posso dire, che senti uno che sta bestemmiando, uguale, eppure io non lo vedo, non mi piace per dire, però non lo vedo così antipatico. Ma guarda, non è una persona, alla fin fine sono canzoni del passato che fanno anche piacere sentirle, come che tu senti Romina Albano, che sono canzoni che noi abbiamo fatto l'infanzia con quella roba lì. Alla fine cosa vuoi dire? Sì, sì, no, lo dico, però ragazzi, se tu guardi il suo internet, cacchio, scrivono di tutto, ecco, anche ho visto l'altro giorno rendersi carta d'identità di Nino D'Angelo, cioè fanno gli scherzi con le carte d'identità, per dire a uno vuoi fare uno scherzo, gli regala la carta d'identità di Nino D'Angelo, poi è tappiro di Nino D'Angelo, cioè sembra cacchio che stai facendo tipo quando vedi uno iettatore, una persona che boniucci, uguale a quello lì. Eppure io non lo vedo, uno non piace, mi ripeto, non è che mi piace molto quel genere di musica, però dico che è un cantante, almeno sa cantare. E se tu vai in cosa a Napoli, loro non è che ascoltano musica italiana, raramente ascoltano tutte queste musiche melodiche napoletane, tipo genere tipo Nino D'Angelo, tipo come le faceva Caruso, le musiche così, ma diventano scemi. Io c'è un amico mio che c'è stato tanti anni lavorando a Napoli, si diventano i matti, fanno le feste, i matrimoni, i compleanni, le feste, e invitano questi personaggi qua, dice gli pagano una barca di soldi, anche alle ieri l'hanno fatto vedere, per dire lo tengono un'ora, due ore per cantare, pigliano un bel di là queste musiche melodiche napoletane. Sì, è vero, però alla fine, cioè, non allora, se l'ascolti ogni giorno, è una rottura di balle, insomma, ma non è patrono tu, c'è gente che si rabuni a 3-4 voci, alla di, l'altro, come ti si chiama, tutti canti altre cose, però alla fine se ci passa un bel po' di tempo ti fa anche piacere a riascoltare quello che aveva fatto, cioè ti fa ripiacere sentirle, ma beh, non, loro sanno cantare, sono degli artisti per una vita, alla fine non ci metto lingua a me, può anche non piacerti, ma non ci metto lingua, cioè sono delle persone che hanno avuto una grandissima carriera, hanno avuto, quindi non, cosa stiamo dicendo? Sì, infatti sto dicendo, meglio preferisco uno di questi napoletani che fanno questa, almeno lo sanno cantare, non questi che senti questi rap che fanno queste musiche, però, non perché mi scandalizzo tutti i parolacce, basta che dicono 2-3 parolacce, mi sconvolgo, mi prendo quello, mi faccio a pezzi, mi tiro qua e lì, la gente si sente, i ragazzi si sentono soddisfatti, questo che hanno un ideale di vita di questo, di questi imbecilli che cantano queste canzoni, e poi vari fanno a pezzi questi artisti che ti possono anche non piacere, ripeto, non possono anche non piacere, però ormai sono artisti che sanno cantare, sono dei musicisti eccetera eccetera. Quando c'era quello Renzo Albano con l'orchestra napoletana, non so se l'hai mai visto cantare, che sono tutti musicisti, quello Murolo, coso, non parliamo di Carosone, non lo cerchiamo perché quello era il leader, il più forte di tutti cantando, ma ha fatto delle canzoni della storia della musica, però quando senti l'orchestra napoletana, la grande orchestra napoletana con Renzo Albano, quando lo faceva la televisione, sono tutti musicisti con le contropalle. Stiamo parlando di musicisti, di gente che sa il fatto suo. Cazzo, ti stacco, ti ammazzo, mi neghiamo, non vedi di guru, dici, yeah! Cazzo, quello io lo sa cosa aveva abbigliato, aveva abbigliato un gatto, adesso ce me lo domandano, io non vado a fare niente. Manco si vincenne. Cazzo, non ci vado a fare una cosa del genere se me lo chiedono. Dico, allora l'impianto rimane fermo lì, gli dico, così. Non lo so, ragazzini queste cose li ascoltano nei cellulari, i video, poi non parliamo di tutti questi video troppo esagerati, di violenti e cose del genere, loro si cagano con queste. Poi c'è l'altro mio nipote che dice sempre bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum, poi cambia ritmo e fa bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum, e torna bum bum bum bum. Senti, tu lo senti da lontano, arriva la macchina sua, con questo solo bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Dico, ma che musica è? Sono tutto il giorno in officina a mezzo ai rumori, di martelli e di cose, e così tu mi buoni chissà roba. Dico, ma questa è musica, guarda, ti casa, tu guarda di casa. Chi c'è il rumore? Che è tipo un gabinetto quando scarica un lavandino. Bum bum bum bum. Vabbè, ma cos'è? Ma è il sub macchina? Ma cosa fate tutto che c'è bum bum bum? Spiegami. Ma non ne capiscono niente di alta fedeltà. Io quando li faccio sentire certe cose, dico, quando vuoi sentire alta fedeltà, te la faccio sentire. Loro non sanno manco cos'è l'alta fedeltà, ma il 90% delle persone, oltre che ragazzi, quando loro parlano di hi-fi, rimangono, io ascolto qua, c'ho 2000 watt, sì, 2000 watt del rumore, tu l'alta fedeltà non sai neanche che cos'è, quanto deve salire, quanto deve scendere il basso, gli acuti a dove devono arrivare, l'equilibrio musicale, tante cose, tu li intendi solo un rumore, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu. Ma passano delle macchine con potenza strabilianti, io dico, ma cacchio te ne fai? Non si capisce niente, tutto distorsione, e loro sono convinti, vedi, gli autocollanti che vanno a fine corsa, talmente sono caricati senza filtraggio e senza limiti, e loro sono convinti che hanno un impianto in macchina a 2000 watt, ma te la devi fare 2000 watt, io ti faccio sentire impianti con un quarto della potenza, li fanno 10 a 0, basta utilizzare sistemi di un certo livello, di un certo pregio, così a casa mia, quando faccio sentire l'impianto mio, dice, oh cacchio, qua, ma con 5 watt, non con potenze esuberanti, basta avere delle casse di un certo livello, sensibili, che ti tirano fuori dei bassi e ti spaccano il fegato, ti senti il colpo allo stomaco, con woofer grossi, eccetera, eccetera, e tu li piloti con 5 watt, io a casa mia ne ho potenza quanto ne voglio, però se li dai più di 10 watt ne butti in terra il palazzo, te ne vengono i vicini del fuoco, cacchio, dice, è successo una bomba. Allora, il problema di questa roba qua, che io ad alta potenza te lo posso mettere, però ci vogliono anche i soldi, ci vogliono a comprare certe cose, per avere la fedeltà veramente, ci vogliono i piccioli, ci vogliono i soldi, perché è un impianto che suona forte, però che si sente un bellissimo suono. Vivo un bel poco di dinà, no, chi ci così, poi chi ci inciappuglione così. Tanto dovendo capitare ti faccio sentire, penso che anche tu ne avrai sentito di impianti, senza spendere esorbitanti cifre, già c'è modo di ascoltare, molto meglio di gente che spende tanti soldi e fa schifo la qualità del suono, perché io ti faccio vedere gente che ha speso un bel di dinà, ma soldi tanti, soprattutto in macchina, dice, ma che cacchio di cagata di suono, lui è entusiasta, vedi, ti faccio vedere, fammi dire, e dice, beh, e quindi alla fine ti metti le mani in testa, dice, ci ha buttato i soldi in mano, sai quanti ne conosco, c'è questo amico mio che ha una macchina sua, ha speso migliaia di euro, quando l'ho sentito ho fatto sì, un suono discreto, ma niente di più, allora ha cercato di equalizzare, di toglierne, di filtrarlo diversamente, eccetera, eccetera, e lui ha speso una barca di soldi, ma sta parlando di migliaia e migliaia di euro, in una macchina di un certo livello, così a casa sua, però a casa diciamo è stato consigliato, ha avuto già qualcosa di meglio, ma stiamo parlando di casa di decine di migliaia di euro di soldi, però c'è gente che si compara a marchio, non è che va ad ascoltare, dice sì, vediamo queste casse, provo a sentirle, poi provo questo amplificatore, vediamo come va bene, io ascolto questo genere di musica e forse è meglio utilizzare questo tipo di cassa che c'è una resa migliore, invece questi guardano a marchio, piglia Guido perché se l'ha comprato l'amico suo, è come l'orologio, ti pigli il Rolex perché sei convinto che Rolex è più bello, e non è così, la gente anda a baghisso, non è che ascolta la musica, e poi sapere ascoltare la musica non sono molti, pochissima gente ha l'orecchio abituato, poi quando glielo fai sentire è come che tu senti un radione e poi gli fai sentire un impianto discreto, la differenza è quella, dici, cacchio, come mai non senti questa voce, o senti in evidenza troppo gli acuti, o troppo il basso, o troppo il medio, ci vuole un equilibrio suonare, e se capita già ti faccio sentire, tu ne avrai sentito, senza spendere cifre esorbitanti, mia, tu. Oh, quello che parlo io, cioè se vuoi veramente un impianto che tocca, cioè, perché io non è che uso la roba da casa, allora mettiamocelo in testa, la roba da casa, la roba da casa, la roba di usare dentro le sale, è un'altra cosa, stiamo parlando di un'altra categoria, e se io ti metto due casse FBT, un sub da 15 FBT, lasciamo stare, là. Break veloce. Avanti break. Ciao Franco, ero qua di passaggio, volevo fare una domanda ad Antonio. Ma è vero Antonio che tu sei un appassionato anche dei Maneskin? Di Romanico, cosa hai detto? Vabbè, forse tu dico che mi scappa da ridere. ridere. Ma sì, fino adesso. Ah, fuori di testa. Sì, quelli. Sì. Ah. Così. Non è che a me mi piace anche da cosa. Tratatumba, vai, chico. No, perché quelli hanno un seguito di ragazzine e dei ragazzini micidiali. Vabbè, non ci sono riuscito, volevo vedere qualche cosa alla relazione di Antonio. Riprendi Roberto. È venuto poco fa il discorso, Beppe Dettori, l'ex voce dei Tazenda dopo Parodi, ha fatto la versione Muti e Cagliati in sassarese di quello Zitti e Muti, che hanno vinto anche l'Eurofestival, adesso diventeranno milionari perché hanno una cosa con la Suni, hanno fatto un contratto con la Suni, chissà cosa riescono a tirarne fuori. Adesso quelli ci scrivono tre fesserie, ogni disco che fanno viene pubblicato e so di no, un be. Sei presente in Svezia, ho visto oggi un video, i semafori in Svezia, un paio di semafori, e siccome lì c'hanno anche le musiche, i semafori, durante quando c'è il coso di blocco, il rosso, hanno messo di sottofondo la musica dei Maneskin, per fare un esempio inutile, e questi piano piano suonando in strada sono andati a cosa, quel programma mi sembra X Factor o che cosa era, adesso non mi ricordo perché io non li seguo quei programmi, si sono fatti conoscere, hanno vinto Sanremo e poi hanno vinto l'Eurofestival dopo 31 anni e non è da poco. A me non piacciono, ripeto, però si possono ascoltare, meno peggio di altri. Vabbè, a me era una cosa provocatoria, dai, proprio della reazione di Antonio. Cosa? Cosa hai detto che non ho capito? Ho detto, Antonio, volevo vedere la tua reazione, se li hai visti, come si vestono, come cantano, eccetera, eccetera, dai. Non ti faccio i bipirinati, by me, per carità. Era quello che volevo sentire. Oh yeah. No, giusto per fare due risate così, perché sai Antonio, me l'immagino come proprio quelli attaccati alla sassariseria, quelle cose lì, quando sente, quando vede soprattutto quelle cose, sono anche truccati, mi Antonio. Ehi, è un incrocio, andrà un mezzo froscio, non so, è un uomo, un sottuomo, una cosa del genere. Vabbè, io sto ridendo sopra a quello che ho tenuto, riprendi tu. Non so, dai, adesso la moda di adesso, dai, no, non critichiamo troppo, a qualcuno interessa questo genere di musica, a me non piace assolutamente, però devo dire che ce ne sono molto peggio, quello che c'era l'anno scorso, quello Achille Lauro, mamma mia, quello è ancora peggio, questo almeno qualcosina riescono a strimpellare, ho visto il batterista, non è così male, loro magari le canzoni, le parole, non lo so, non mi interessano, non mi piacciono, però sono meno peggio di altri, speriamo che si aggiustino un pochettino esteticamente, perché vabbè, ricorda dopo i Kiss, non so se vi ricordate, il vecchio gruppo musicale inglese dei Kiss che si vestivano da gatto, da gozzo, con tutti quei cappelli sparati, un periodo l'aveva fatto anche Renato Zero, vabbè, sono delle mode momentanee. Ma non chissà chi la Lauro, non la recuta a balla ancora. Per carità, che personaggio, io l'ho già visto, Ghiccio, cioè, ma là, Ghiccio, perché era da rinchiudere che logo, no? Non lo so, veramente. Vabbè, se parli con i ragazzi dicono che siamo antichi noi, vabbè, noi magari ci guardavamo altri cantanti, mio padre si guardava per dire, era tipo su di Claudio Villa, noi quando è uscito, era tipo su di un cantante, adesso non mi viene nessuno in mente, che magari era un po' innovativo, vabbè, diciamo, a me non piace Vasco Rossi, però qualcuno, Vasco Rossi, quando è uscito che ha iniziato a cantare Coca-Cola da lì e poi con le altre canzoni lì, quel genere lì, la gente, ah questo è bravo, e mio padre quando li ascoltava diceva, ma questo dove cavolo ne è uscito, e noi stiamo facendo la stessa cosa con questi personaggi di adesso, stiamo riproponendo quello che ci dicevano i nostri genitori, perché mio padre, se io gli faccio sentire la canzone della TV di Umberto Tutti, per fare un esempio, che a noi andava ai tempi nostri, adesso dice, ma stai ascoltando tutto il rumore e cosa, loro sono abituati a Beniamino Gigli e tutta quella gente di Claudio Villa e Carosone eccetera. Io ogni tanto vado, quando vado a casa sua, c'è mia figlia, mettiamo un po' di musica di Orietta Berti, gente dell'epoca sua, e loro si sciolgono. Però se li fai sentire adesso la tipo su di Franco Battiato, non lo possono capire, no? Già lo so. Mio nonno, quando mio padre ascoltava, cioè allora c'era la musica, la disco dance, già lo sai, tu conosci queste cose, diceva Ah, me lo cogli che ti scasciati, o rompi le balle, o ti prendo lo stadio e ti lo tiro a capo. No, sono entrato giusto per come è venuto in mente, tutto lì vado a fare un po', fare quattro risate, non era poi, lo sai, io sono un convinto liberale, quindi non... Figurati, non conoscevo neanche anche Lauro, che l'avete nominato, ho fatto subito una ricerca su YouTube e mi è comparso questo signore, non so, un ragazzo, non so che età abbia, che è vestito praticamente neanche da donna, è tutta una cosa un po' strana. E noi ci la gente si scandalizzava per Renato Zero, praticamente era un puritano di prima categoria in confronto a questi. E comunque poi Renato Zero, non so, penso che lo sappiate, è stato uno che ha fatto tanto tanto del bene proprio a livello di ragazzi, ragazzini, ha creato proprio una città per loro quasi, per assistere le persone più disagiate. Comunque vabbè, è entrato solo giusto per fare quattro risate con Antonio. Sì, è vero, siamo vecchi, diciamo tutta. Riprendi a te. Capo, chi sono chi da Lauro? Pare che abbiamo tirato a Ballag. Mamma mia, che personaggio, io quando l'ho visto ho detto, ma cos'è Chiccio? Che ci scemo, ma da Nicito, dalla giungla, non è, io non sono antico per carità, perché dico la verità, chi si canta nei, come ti si chiamavano, Randak, come ti cazzo si chiamavano, Maritesta, Maneskin, Maneskin, io lo chiamo Randak, cioè, Randak, alla fine sono meglio di Achille Lauro, capito? Sì. Cioè, Achille proprio, no, non si può vedere questa persona qua. No, ma Maneskin nel loro piccolo, anche se è tutto pubblicità, produttori che li stanno lanciando, ti bombardano a tutte le ore nelle radio, cantavano per strada, cioè suonavano, stempellavano per strada, qualche un po' di coso di cultura musicale c'erano, anche se ripeto, cioè a me non piace quel rock che fanno loro, molto, molto aggressivo eccetera, non mi piace, però qualcosa sanno fare, sanno suonare almeno lo strumento, poi se sanno ragliare o cantare bene, questo è un altro discorso. Ognuno valuta per quello che sono, ma Achille Lauro è proprio creato così, da oggi all'indomani l'hanno preso, beh, facciamo diventare cantante questo, ti bombardano nelle televisioni e nelle radio, soprattutto nelle radio, perché nelle televisioni di quella canzone che canta lui, ti bombardano e alla fine la gente se l'ascolta e qualcuno se la compra pure, e a quel punto diventa un personaggio pubblico. Non so Goya, però chi so, boh, Achille Lauro, ma non ha mai cantato chi so. Chiccio Giappino. Per carità, ma dai. Ma no, vabbè, non è parente di Achille Lauro quello là, l'armatore, no, non credo. Di chi? Achille Lauro. Achille Lauro era anche un armatore napoletano, grosso, quelli ricco, e c'era anche una nave a suo nome, Achille Lauro. No, assolutamente no. Lui si è chiamato come quello lì, non si chiama mica così, non mi ricordo il nome, è vero. Achille Lauro è quello che avevano fatto il dirottamento, ti ricordi, avevano ammazzato quell'americano, quello paralitico, ci avevano buttato in mare al tempo dei palestinesi, è successo un macello grosso di lì a Napoli, proprio nel porto di Napoli mi sembra successo. È un grosso armatore come può essere Onorato, non c'entra niente, no? Non ha nulla a che vedere, stiamo parlando di due cose completamente diverse. No, perché questo nome, insomma, è un nome abbastanza di prestigio. Sì, tu parli del caso Achille Lauro, che era a largo di Cipro, in quelle zone lì, che erano state Settembre Nero a dirottare quella nave, poi era nato anche il caso di Sigonella con gli americani in mezzo casino, che quattro ne bastavano. Quindi c'è scappato una sparatoria tra italiani e americani lì a Sigonella. Meno male poi le cose sono aggiustate. E niente. No, comunque chiaramente il mio intervento è stato provocatorio e volevo vedere la reazione di Antonio, perché me lo sono immaginato, ma lui che balla, che comunque fa sempre roba classica, vedere queste nuove musiche. che chiamava così, la reazione che aveva, giusto per fare due risate. No, invece è positivo che molti ragazzi, quando sentono la musica dei cantatori famosi, compagni e compagnia cantante, no, di quella classe lì, quindi stiamo parlando di Lucio Battisti, anche tra quella serie degli anni 70-80, molti rimangono anche affascinati da quella musica, perché ci sono i testi, le musiche azzeccate. Quindi insomma, siamo sì vecchi, però eravamo anche buongustai, diciamo, ciao a tutti. Comunque adesso stavo guardando su internet, si chiama Lauro De Marinis, fa 31 anni a cosa a luglio questo ragazzotto, dai. Pensavo fosse più giovane, sinceramente. I genitori sono Nicola De Marinis e Cristina Zambon, rapper italiano, ha partecipato alla Festival di Sanremo, eccetera eccetera. È tutta una cosa costruita in laboratorio, come si dice, il virus, quello lo stesso discorso, e anche parliamo senza allargarci molto, anche se la gente molto non lo sa, e Claudio, come si chiama? Non Claudio, come si chiama? Vasco Russo è stato costruito, è un cantante costruito, era un DJ in una radio.